Da questa settimana, lo saprete anche voi, siamo in par condicio. Significa che a norma della legge 22 febbraio 2000 numero 28 e del relativo regolamento d'attuazione emanato lo scorso 23 marzo dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera numero 25301 CSP, nelle trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica, c'è scritto così, è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni e preferenze di voto, e che non si può dare la parola a candidati, membri del governo, membri di giunte e consigli, esponenti di partiti e movimenti e simili, e tutti i personaggi che potranno essere sentiti solo nelle trasmissioni di informazione e solo per motivi di stretta attualità. I due divieti, soprattutto se si ricorda perché sono stati introdotti, possono apparire discutibili ma ragionevoli, anche se complicano terribilmente la vita a chiunque voglia fare dell'onesta informazione politica e rappresentano in ultima analisi una patente violazione della libertà d'espressione e di parola. E molto meno ragionevole è la norma dell'articolo 14 del regolamento, per cui i conduttori ospiti delle trasmissioni devono badare a non influenzare anche in modo surrettizio ed allusivo le libere scelte degli elettori. È un po' un problema, perché le allusioni sono per definizione delle proposizioni non esplicite, e per poterle vietare bisogna arrogarsi il diritto di esplicitarle, di decidere cioè se una certa affermazione si riferisce a qualcosa d'altro da quello a cui sembra a prima vista riferirsi, che è un'impresa meno facile e un pochino più arbitraria di quanto sembri. Se io rivelo documenti alla mano che tal candidato ha commesso la tal azione disdicevole, la mia rivelazione dovrà essere considerata un invito allusivo o surrettizio a non votarlo o no? E lasciamo pure perdere il surrettizio, perché l'aggettivo, stando ai principali vocabolari, si riferisce a ciò che si ottiene tacendo intenzionalmente qualche circostanza essenziale, come a dire un beneficio ottenuto grazie a una menzogna. E quindi in questo contesto non c'entra nulla, ma nessuno potrà impedire a chi voglia di leggere in quella mia affermazione, se lo desidera, un'allusione. E siccome il ragionamento vale anche quando di un candidato o della sua parte si elencano meriti e virtù, e se ne dovrebbe trarre la conclusione imprescindibile che per essere davvero sicuri di non violare la legge, in periodo elettorale di partiti e di candidate non si dovrebbe mai dire nulla di nulla, né in bene né in male, il che, ne converrete, fa intravedere una concezione piuttosto strana della democrazia e della libertà di informazione. A noi della caccia naturalmente tutto questo interessa fino a un certo punto, perché non è nostro costume dire a nessuno se deve votare e per chi, e la nostra trasmissione d'altronde non prevede la partecipazione di candidati, membri del governo, delle giunte, dei consigli, dei partiti e dei movimenti. Il nostro lavoro semmai è quello di mettere in evidenza quanto ideologicamente occulto si trova nelle comunicazioni di costoro e di chiunque altro. E in questo, come ben sapete, non c'è proprio nessun tentativo di influenzare allusivamente le libere scelte di chi che sia, anche perché è del tutto ovvio che se una scelta è libera vuol dire che non si lascia influenzare, mentre se soggetta all'influenza altrui, libera non è. Sembra un bisticcio, ma identificare la libertà di scelta non tanto con la capacità di distinguere e scioperare tra i giudizi e le informazioni che si ricevono, quanto con l'eliminazione coatta di qualsiasi informazione libera o di giudizio non autorizzato, questa identificazione è tipica di chi crede che per fare uguale le parti tra i disuguali basti negare la libertà di parola. Ma la tonto vuol dire?